in primo piano. Buongiorno a tutti. In realtà non sono tantissimi i temi sulle prime pagine oggi dei giornali. Anzi, direi che ce n'è uno che praticamente comanda, dilaga, e cioè il lunedì nero delle borse. Il Sole 24 Ore titola: i timori sulle banche e l'Europa dell'Est abbattono le borse. Repubblica: borse a picco, crolla il PIL. Il lunedì nero dei numeri neri, La Stampa. Nuovo tonfo di Wall Street, Il Corriere della Sera. Insomma, questo è più o meno il tono dei titoli di apertura dei giornali di oggi. Ma prendiamo Repubblica per avere un breve riepilogo di quanto è accaduto ieri. Scrive Repubblica in apertura del giornale: il lunedì nero delle borse mondiali, innescato dalla crisi della banca inglese HSBC, ha colpito con violenza Piazza Affari, travolta dal crollo dei titoli bancari e dal panico per l'aggravarsi della crisi economica. La borsa milanese è stata la peggiore in Europa e in Asia. Nel contempo l'Istat ieri ha comunicato i dati sul PIL del 2008, anno che ha segnato una riduzione dell'economia italiana. Il prodotto interno lordo, cioè l'indice che misura la ricchezza prodotta dal paese, è calato dell'1%. Il dato rivede al ribasso non solo la stima preliminare comunicata in precedenza dallo stesso Istat, ma anche le ultime stime ufficiali del governo. Per quanto riguarda l'Italia, è il dato peggiore dal 1975. Certo, una giornata non particolarmente allegra. Sul tema in generale della crisi interviene con un editoriale in apertura del Sole 24 Ore Alberto Alesina, con un pezzo che scrive insieme a Ignazio Angeloni, che credo valga la pena di leggere almeno in parte. Il titolo è: il rischio più grande è aumentare la sfiducia. Ha fallito il capitalismo? Si chiede Alesina. A leggere i giornali, non solo italiani, sembrerebbe proprio di sì. Conferenze e riunioni internazionali ormai non fanno notizia se non parlano del disastro in cui il sistema basato sulla triade globalizzazione, liberalizzazione e finanza ci ha gettato. E se non fanno a gara nel proporre nuove formule per un capitalismo sostenibile, in contrasto con quello attuale, insostenibile, fatte per lo più di regolamentazione e controlli pubblici, ove non di statalizzazione tout court. A leggere i giornali di queste settimane, sembrerebbe un gioco da ragazzi inventarsi un nuovo sistema economico. Il pendolo politico e al seguito quello mediatico si stanno spostando violentemente, rischiando di travolgere coloro che hanno sostenuto e sostengono un sistema economico nazionale e internazionale di libero mercato, basato appunto su quella triade. Il sistema, cioè, che, spiega Alesina ancora nell'editoriale del Sole 24 Ore, affermatosi nei primi anni Ottanta su ispirazione e leadership degli allora governi conservatori inglese e americano, è divenuto poi punto di riferimento di ogni continente e per quasi ogni parte politica. I fatti però sono testardi e parlano diversamente. In nessun periodo storico, ricorda Alesina, l'economia del mondo ha goduto di un'espansione stabile e sostenuta come in quest'ultimo quarto di secolo. La crescita alta e, si badi, molto stabile in tutti i paesi avanzati è stata ancora più forte nei paesi che oggi, proprio per questa ragione, chiamiamo emergenti, ma che una volta si chiamavano poveri. E non è solo Cina. L'India, 25 anni fa epitome incurabile della arretratezza economica, è oggi un anello vitale della catena produttiva mondiale. Anche nel 2009, nel mezzo della crisi, crescerà del 5%, per non parlare di parte dell'Africa, che ha avuto solo in questi anni la possibilità di uscire, pur tra mille contraddizioni, dal vicolo cieco della povertà estrema, e così via. Questi risultati non sarebbero stati raggiunti senza i tre corni della triade, cioè senza un sistema di commercio e finanza liberi a livello globale. Tutto questo non è cancellato dalla grave recessione che oggi viviamo, è un risultato acquisito e non è vero che la crisi vanificherà queste conquiste. Sempre in tema economico, alcune notizie che aprono quantomeno degli scenari e delle prospettive di ottimismo per quanto riguarda il settore automobilistico, quello forse più colpito dalla crisi di questi mesi, lo leggiamo sulla stampa, riguarda il settore appunto dell'auto. Auto, primi segnali di ottimismo, scrive la stampa a pagina 23. Febbraio è ancora un paese pesante per il settore dell'auto, si legge nell'articolo di Fabio Pozzo. Le immatricolazioni calano del 24,45% rispetto allo stesso mese del 2008, ma si incomincia a vedere l'effetto degli ecoincentivi governativi. Intanto la flessione è più contenuta rispetto al crollo di gennaio, quando il dato era sceso del 32,6%, e poi c'è il risveglio dell'interesse dei consumatori. Il 59% dei concessionari, secondo un'inchiesta del centro studi Promotor, parla di alta affluenza di visitatori negli showroom e Fiat registra un buon incremento dei contratti di acquisto, 70.000, il doppio rispetto a gennaio e il 30% in più rispetto a febbraio di un anno fa. E si salva dal crollo di ieri della borsa, registrando un più 61% a 3,62 euro. Sempre in tema economico, ritornando sugli argomenti del vertice europeo di domenica scorsa, che è stato caratterizzato fortemente dal tema Est Europa, dove ci sono tutta una serie di paesi in grosse difficoltà, che hanno anche organizzato un vertice, un prevertice dedicato solo ai paesi dell'Est. Ritorna sul tema Repubblica con l'apertura del suo, diciamo, inserto, il cosiddetto R2, l'inserto, diciamo, interno al giornale con i pezzi più di approfondimento e di lettura. Si occupa dell'argomento Andrea Tarquini, il corrispondente dalla Germania di Repubblica. Il titolo dell'articolo è Il nuovo muro d'Europa. Leggiamo brevemente l'inizio del pezzo di Tarquini. Un nuovo muro minaccia di dividere l'Europa, una nuova cortina di ferro fatta di redditi ma soprattutto di incomprensioni, diffidenza e odi può dividere l'Europa unita. È triste l'inverno 2009 dei grandi anniversari nel centro-est, liberatosi 20 anni fa dal comunismo. 2 decenni dopo la rivoluzione polacca e la caduta del muro di Berlino, 10 anni dopo l'ingresso delle nuove democrazie nella NATO e 5 anni dopo l'allargamento della UE, venti di paura tornano a soffiare gelidi e minacciosi a oriente dell'ex cortina di ferro. Ma per la prima volta soffiano da occidente, non da Mosca. Il no del vertice UE a piani di aiuti per i nuovi membri, la paura di tutto il centro-est per il brutale protezionismo di Sarkozy che invita Peugeot Citroën a licenziare a Praga prima che a Parigi, il crollo degli ordinativi alla moderna industria risorta per l'export dopo il 1989, l'esposizione delle banche in pugno ai big occidentali tentati di disinvestire, riportano nella nuova Europa, sullo sfondo della grande crisi economica e finanziaria internazionale, l'incubo rosso del generale inverno. Ecco, questo è l'inizio dell'articolo che Repubblica dedica alle nuove divisioni est-ovest. In tema di politica estera, insomma di diplomazia internazionale, un argomento che si affaccia sulle prime pagine dei giornali è quello dell'accordo Italia-Libia, solennemente firmato ieri a Tripoli dal premier Berlusconi insieme al presidente libico Gheddafi. Ne riferiamo brevemente da Repubblica ancora, l'articolo dell'inviato Luzzi da Sharm, dove c'era il vertice per la raccolta dei fondi per la ricostruzione di Gaza, e poi appunto da lì sulla questione libica. Nel deserto della Sirte, dopo aver partecipato in Egitto alla conferenza per la ricostruzione di Gaza, Berlusconi firma solennemente la pace con la Libia di Gheddafi. Accolto a braccia aperte dal colonnello sotto la tenda, il cavaliere ha chiesto scusa per le colpe dei colonizzatori e ha invitato formalmente Gheddafi al G8 della Maddalena con tanto di location assicurata per la tenda che accompagna sempre il leader libico. Ora, è la risposta di Gheddafi, le aziende italiane che vogliono investire in Libia hanno la precedenza su tutte le altre e gli italiani che furono cacciati nel 1970 potranno tornare per lavoro e turismo. L'accordo, già ratificato dal Parlamento italiano, prevede che l'Italia finanzierà la realizzazione di infrastrutture sul territorio libico per una spesa complessiva di 5 miliardi di dollari nell'arco di 20 anni. Un altro tema di politica estera che troviamo richiamato nelle prime pagine dei giornali è relativo alla soluzione che è stata decisa ieri in Iraq nei confronti di Tareq Aziz, l'ex numero due del regime di Saddam Hussein, coinvolto in uno, a dir il vero, dei tanti processi che lo riguardano. La notizia è comunque abbastanza clamorosa. Leggiamo dal Corriere, a pagina 11, il titolo dell'articolo è: il tribunale di Baghdad assolve Tareq Aziz. Ma ricorda anche il Corriere, giustamente, ancora due processi per l'ex numero due del regime. L'articolo è di Michele Farina. Dopo il verdetto ha alzato la mano e ha detto grazie, quasi di fretta. Capelli bianchi, abito scuro, l'aria fragile ma i baffetti curati come ai tempi in cui era il volto internazionale del regime, il sigaro e l'inglese sciolto. Per Tareq Aziz, 73 anni, ex ministro degli esteri di Saddam Hussein, il meno impresentabile dei suoi lacchè e l'unico cristiano nel mazzo dei 55 super ricercati americani, la soluzione di ieri mattina a Baghdad non vale la libertà. Tempo poche ore e l'otto di picche, questo era la carta che gli americani avevano assegnato a Tareq Aziz nel famoso mazzo appunto dei ricercati, era di nuovo in aula. Altro giudice, altro processo, massacro di curdi negli anni Ottanta. E ne restano due, compreso quello per l'esecuzione sommaria di 43 commercianti accusati di mercato nero. In entrambi rischia la testa, ma il primo cappio l'ha evitato. L'alto tribunale iracheno, che ha messo a morte il Rais e tre fedelissimi tra il 2006 e il 2007, non l'ha ritenuto colpevole per le stragi di sciiti avvenute durante le proteste del 99. Non è andata così bene per Hassan al-Majid, detto Ali il chimico, 64 anni. Destino segnato quello del cugino di Saddam, terza condanna a morte in tre procedimenti. E appena prima dell'introduzione per le informazioni sul traffico avevo accennato a un argomento interessante che troviamo oggi sulle pagine interne dei giornali, cito dalla Stampa i testi teatrali e le canzoni di Giorgio Gaber entrano tra gli argomenti di studio nelle scuole. Il ministro Maria Stella Gelmini e la figlia del cantautore scomparso Dalia hanno firmato ieri un'intesa. Gaber, ha spiegato la Gelmini, insegnerà ai ragazzi a pensare con la propria testa, senza banalità, pregiudizi e ideologie. È un esempio di libertà e rigore, di una trasgressività positiva. Questa è la notizia. Interessante è il commento che Andrea Scanzi scrive in accompagnamento di questa notizia. Strano paese l'Italia. Ormai a dire qualcosa di sinistra è la destra. La volontà di consegnare Giorgio Gaber all'eternità, si spera non cristallizzante dei libri di testo, non può che essere condivisa. Poi però si tratta di capire perché ad averci pensato sia stata la destra. Per chi conosce Gaber non è una notizia stupefacente. Persino nel settantennale della sua nascita le attenzioni celebrative dell'intelligenza di sinistra sono state totalmente rivolte a Fabrizio De André, consegnato una beatificazione acritica che avrebbe infastidito anzitutto lui. Anche De André era un artista scomodo, ma evidentemente in qualche modo più disinnescabile dal buonismo salottiero. Con Gaber è più difficile. Gaber era spietato, innamorato del dubbio, affascinato dalla provocazione, pasolinianamente diffidente nei confronti della verità intoccabile. Non è un caso che, negli ultimi anni, la sinistra lo avesse dimenticato. Giovanni Raboni lo accusò di leghismo estetico, Luca Canali sull'Unità lo bollò come menestrello dei dittatori. Questo è l'inizio del pezzo di Andrea Scanzi sulla Stampa a pagina 33. Sempre sulla Stampa alcune pagine prima, pagina 14, c'è la notizia, che hanno ovviamente altri giornali anche, ma che la stampa, a cui la stampa dà un rilievo maggiore, sul suicidio di massa delle balene in Tasmania. L'argomento è affascinante perché ritorna su un mistero irrisolto, cioè i motivi reali per cui le balene vanno a morire a gruppi, a volte giganteschi, sulle spiagge. Per i turisti e i residenti accorsi sulla spiaggia di Naracopa in Tasmania, scrive la stampa, nelle prime ore di domenica mattina lo scenario è stato quasi apocalittico. Un esercito di balene e delfini allineati e agonizzanti nella sabbia, distesi per centinaia di metri lungo il bagnasciuga. Lo spiaggiamento di massa ha coinvolto 194 balene pilota e una mezza dozzina di delfini dal naso a bottiglia, arenatisi sulla piccola King Island, nello stretto di Bass che divide la Tasmania dall'Australia meridionale. La zona è già nota agli esperti come una tomba di balene che da lì passano sulla rotta per l'Antartico. Ne sono morte già 400 negli ultimi mesi, anche se è raro assistere a una tale mattanza collettiva. Un mistero nel mistero, visto che lo spiaggiamento non ha ancora trovato risposte certe da parte della comunità scientifica. Ma i bagnanti di Naracopa, scrive ancora la stampa, non si sono posti troppe domande, hanno cominciato la loro lotta contro il tempo, riuscendo a spingere in acqua e a salvare 54 balene e 7 delfini, con l'aiuto di motoscafi e moto ad acqua. L'operazione è durata per diverse ore e ha coinvolto centinaia di persone, fino a notte. A pagina 9 di Repubblica, cambiando totalmente argomento, c'è un articolo che vale la pena di segnalare sul rapporto tra italiani tra gli italiani e lo Stato, tra gli italiani e le loro istituzioni. La situazione apparentemente, stando a quel che risulta da una ricerca di Ilvo Diamanti pubblicata da Limes, di cui parla appunto Repubblica, è sempre peggiore. Leggiamo l'inizio dell'articolo di Silvio Buzzanca: sempre più attaccati alla famiglia e lontani dallo Stato, sempre orgogliosi di essere italiani, ma disinteressati alle istituzioni nazionali, tutte le istituzioni, perché la sfiducia avvolge nel suo mantello il comune come la regione, il governo come il Parlamento. Sempre convinti, il 32,8%, che l'arte di arrangiarsi sia una delle virtù nazionali. L'anno prossimo l'Italia festeggerà i 150 anni di unità nazionale, ma il quadro che delinea l'inchiesta La Polis Limes, diretta da Elvo Diamanti e pubblicata sull'ultimo numero della rivista di Geopolitica, diretta da Lucio Caracciolo, non è esaltante, anzi, al punto che nell'introduzione la famosa frase attribuita a Massimo Tapparelli, conte d'Azeglio, viene proposta rovesciata. Fatti gli italiani, adesso bisogna fare l'Italia, perché siamo una famiglia più che una nazione. Per gli amanti del genere, cambiando ancora una volta del tutto argomento e passando allo sport, in particolare al calcio, segnaliamo i numerosi articoli che i giornali di oggi dedicano alla questione Balotelli, cioè ai comportamenti un pochino estremi e criticabili dell'attaccante, del giovanissimo attaccante dell'Inter, che si è fatto qualche numero anche nell'incontro con la Roma di domenica sera. Manca solo il parere di Cristiano Ronaldo, scrive il Corriere, per esempio pagina 49, la più illustre vittima del suo presunto bullismo pallonaro, e siamo a posto, perché nel solito lunedì in cui di tutto si parla tranne che delle partite, su Mario Balotelli, caso internazionale, hanno sentenziato in tanti da ogni parte, pochi a favore, molti contro, e di questi moltissimi colti da un moralismo e da un'indignazione che stranamente non si nota di solito in altri casi, in altri tempi, con altri giocatori solo anagraficamente più maturi. Sembra quasi una difesa dei comportamenti del giocatore dell'Inter, forse non è un caso che questo avvenga su un quotidiano milanese, e non a caso su un quotidiano romano come il Messaggero si legge invece un durissimo attacco ai comportamenti del giocatore dell'Inter. Chiudiamo con un brevissimo passaggio sulle prime pagine di alcuni altri giornali. Il Riformista, che dedica in prima pagina un commento sulla crisi del Milan, il giornale che affaccia in prima pagina un pezzo sulla nuova ordinanza per i cani, di cui parlerà più tardi proprio Alessandro Milan, infine Libero, che sceglie una apertura del tutto diversa, sorprese elettorali, un portiere per Silvio. Dopo il commercialista in Sardegna, Berlusconi candida l'ex giocatore Giovanni Galli del Milan a sindaco di Firenze. Questo è tutto per oggi, grazie agli ascoltatori.